Adesso ricordo che un amico si sposa e mi vuole da testimone. Ma perché dovrei testimoniare lui? Io sono io e anche parte di lui. Ma forse non dovrei deluderlo. Sono entrata nella sauna per sudare un dubbio.